loro reportage. Effetto Covid. L'Europa riparte dai Recovery Fund di Gigi Donelli. We welcomed the joint roadmap for recovery. Abbiamo accolto con favore la tabella di marcia comune per la ripresa, con i suoi principi chiave, come la solidarietà, la coesione e la convergenza. Inoltre, vengono identificati 4 settori di intervento chiave: un mercato interno perfettamente funzionante, uno sforzo di investimento senza precedenti, misure globali e un sistema di governance efficace. È della massima importanza aumentare l'indipendenza strategica dell'Unione e produrre beni socialmente importanti in Europa. In seguito alla riunione dell'Eurogruppo in formato inclusivo del 9 aprile 2020, abbiamo sostenuto l'accordo su 3 importanti reti di sicurezza per lavoratori, aziende e stati, che costituiscono un pacchetto del valore di 540 miliardi di euro. Abbiamo chiesto che il pacchetto sia operativo entro il 1 giugno 2020. È importante dimostrare ai paesi più colpiti dalla pandemia, come l'Italia, che il progetto europeo è forte. Quello che avete sentito è Charles-Yves Michel, politico belga, primo ministro del Belgio dal 2014 al 2019. Il 2 luglio del 2019 è stato eletto dal Consiglio europeo come presidente del Consiglio europeo, quella istituzione appunto dei capi di Stato e di Governo che di fatto indirizza l'intera politica dell'Unione, oggi a 27. L'Europa riparte davvero dal Recovery Fund che è stato, che è emerso da queste ore, da queste 5 ore di dibattito di giovedì sera. Lo scoglio del MES potrà essere superato, perlomeno aggirato, visto che solo qualche giorno fa sembrava davvero l'iceberg del Titanic europeo. La navigazione di certo resta lunga, le incertezze moltissime, ci vorrà tempo per chiarirci e chiarire le idee. Tempo che oggi appare a molti, anzi a tutti, un bene davvero prezioso. Cominciamo allora a sentire il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sull'esito della sua trattativa. Tutti e 27 paesi hanno accettato, abbiamo accettato di introdurre, per reagire a questa crisi sanitaria, a questa emergenza sanitaria, economica e sociale, uno strumento innovativo, il Recovery Fund. Sarebbe un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia. È una importante perché è passato anche il principio che è uno strumento urgente, è uno strumento assolutamente necessario. L'Italia è in prima fila a chiederlo e devo dire la verità che la nostra iniziativa con la lettera firmata agli altri 8 paesi è stata molto importante perché uno strumento del genere era assolutamente impensabile sino adesso. È un nuovo strumento che si aggiungerà a quelli già varati, renderà la risposta europea, ci auguriamo, molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace. Il MES e il Movimento 5 Stelle, tra questi due acronimi Giuseppe Conte si gioca una delle partite più delicate del suo governo, nodo che verrà a galla maggio quando a tutta la maggioranza e non solo a chi si occupa dei dossier economici potrebbe essere chiaro come i 36 miliardi del MES Lite potrebbero servire. Allora c'è già chi cambia un po' posizione, Ignazio Corrao, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, proprio ieri mattina a Radio 24. Non abbiamo e non emerge neanche dal Consiglio di ieri alcuna certezza che per tutta la durata del prestito, quindi per tutta la durata dell'utilizzo del Fondo Salva Stati, non ci sia appunto una condizionalità esclusivamente legata alla spesa sanitaria. Questa c'è in una fase iniziale, nella fase di restituzione si potrebbe andare a chiedere quel tipo di aggiustamenti, che poi sono il cosiddetto ingresso della troica. Il meccanismo europeo di stabilità non è più quello che per cui è stato costruito, quindi se scompaiono totalmente per tutta la durata del prestito e non ci sono più rischi di alcuna sorta sugli aggiustamenti macroeconomici, quindi su un ingresso esterno, allora il problema scompare. Però Se Conte attiva il MES, il governo cade, aveva detto appunto solo a metà settimana l'eurodeputato, adesso ci sono aperture che poi sono state ribadite anche ieri sera da un intervento del capo politico del Movimento 5 Stelle, Crimi. Andiamo invece sul sicuro, nel senso che sentiamo Enzo Amendola, ministro degli affari europei del governo Conte, su la sua visione dell'incontro di giovedì sera. Esiti positivi, si sono aperte delle strade nuove, abbiamo scelto delle azioni di politica fiscale comune e quindi si è deciso cosa fare, cosa farlo nei tempi giusti, quindi dobbiamo cercare di azionare tutte le leve comuni, tutto il fondo per la ripresa che sarà lo strumento più potente di politica fiscale proprio per aiutare imprese, mondo del lavoro. Ieri è stato un segnale positivo, si procede e si va avanti. Sarà un negoziato a tappe serrate, i tempi sono da qui a giugno e la politica fiscale europea si è messa in movimento, che era una cosa mai successa. La politica fiscale europea che si mette in movimento, Amendola su questo è tornato più volte anche nel suo intervento, chiedendo di fatto poi di valutare il MES senza anatemi, ma sentiamolo. E abbiamo dato vita a una scelta, dal primo giugno saranno in campo le risorse 540 miliardi tra fondo per le imprese della Banca Europea per gli investimenti, fondo per la disoccupazione e linee di credito del MES. Il 6 maggio, per terminare tutto, a giugno la Commissione proporrà e negozieremo questo, perché sarà ovviamente nei dettagli da verificare tutti gli elementi, un nuovo bilancio europeo e soprattutto questo fondo per la ripresa, che dovrà avere anche una portata superiore ovviamente ai 540 miliardi che sono già saranno disponibili dal primo giugno. Lega e Fratelli d'Italia invece fermi nella loro lettura nei confronti di Conte e della sua attività europea. Salvini ha definito fallimento e disfatta quanto raggiunto nel Consiglio. Giorgia Meloni parla di una trappola per topi. Dall'inizio di questa pandemia l'Europa ha fatto di tutto per spingerci in un angolo. Avere oggi un documento che dice che il recovery fund se ne parlerà, ma vediamo più avanti, che gli eurobond in ogni caso non ci sono, addirittura non viene citata la Banca Centrale Europea, che vuol dire che il bazooka della Banca Centrale Europea non è uno strumento strutturale per affrontare la crisi, che significa che la Banca Centrale Europea può smettere domani di comprare titoli di Stato italiani, ma in compenso c'è il MES. Tutto ci spinge verso l'attivazione del Fondo Salva Stati. E il Fondo Salva Stati è una trappola per topi. Anche drammaticamente nella sua versione cosiddetta light, perché i prestiti hanno sempre delle condizioni. E infatti il direttore del Fondo Salva Stati qualche giorno fa ci ha chiarito senza mezzi termini che le condizioni light valgono fino alla fine dell'emergenza e che per loro l'emergenza finisce fra un anno. Pensiamo di restituire eventualmente 36 miliardi di euro in un anno? No, e se noi non restituiamo 36 miliardi di euro in un anno, vuol dire che fra un anno, mentre noi ancora dobbiamo restituire i soldi che ci hanno prestato, le condizionalità diventano condizionalità pure e ci entra la troica dentro casa. Anche il centrodestra è diviso nelle dichiarazioni di Berlusconi già nei giorni scorsi. Sentiamo il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. 36-37 miliardi che potremo chiedere fanno bene per rinforzare il nostro sistema sanitario. E lo definisce un primo passo avanti. Maria Stella Gelmini invece, che è capogruppo di Forza Italia, sentiamola. Purtroppo è stata, diciamo, una riunione interlocutoria, però, come ha detto Antonio Tajani, un passo avanti è stato compiuto verso i recovery fund. E i recovery fund, ricordiamoci che sono risorse del bilancio dell'Unione che possono servire come un piano Marshall per rilanciare l'economia del continente e anche l'economia italiana. Quindi noi diciamo semplicemente che con tutti i difetti che può avere l'Europa, quelle risorse ci sono utili, anzi indispensabili. Questo dunque per adesso, come avete capito, è un percorso appena iniziato o quantomeno iniziato ma non certo concluso. Tutto il seguito nella cronaca e nei nostri aggiornamenti. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.